svegliato in una notte di settembre, quando il buio non c'era più. Ehi, ehi, ehi, nemmeno tu. Sul biglietto solo un punto esclamativo e una goccia di lacrime. Ehi, ehi, ehi, ecco il perché. Prendo fiato, cerco un modo per convincermi che è vero, che non fosse ancora quella solita illusione, che tu fossi lì con me, come se quella fosse l'unica notte di settembre. Settembre, quando il buio non c'era più, niente di più. Il solito biglietto per un dubbio, ma una goccia di lacrime. Questa volta non ci riesco, piango, ora devo andare. Quello che rimane è la solita illusione che io fossi lì con te, come se quella fosse l'unica notte di settembre. Addormento dopo un'ora ed un istante, ma di buio non ce n'è più. Hey, hey, hey, hey. Sono passati troppi mesi di settembre e qualche goccia di lacrime per ricordare se fossi con me. Prendo fiato, cerco un modo per convincermi che è vero, che non fosse ancora quella solita illusione, che tu fossi lì con te, come se quella fosse l'unica notte di settembre. Nine, nine.